Diamant Binet Triple X XXX Roma Genova Chiavari Conegliano suono Triple X, attento, questo è il suono, gli occhi clip, attento, attento, attento, ti amane bene e non ti basta il talento, questo è il suono Triple X, attento, questo è il suono, gli occhi clip, attento, attento, attento, comincia in provincia, ma sta già arrivando in centro. Ti scombino i neuroni, ti inverto le sinapsi, poi ci pompi ad ultrasuoni. Siamo con lo stereo a palla, dai tempi del palla. E a volte neanche rap fra, ma tenuto a galla. Mo la gente vale, faccio storia Triple X. Mo la sito è calda, resto sempre gli occhi click. Se faccio uno dei tanti, loro chiedono il bis. Un pezzo come tanti, a punta d'oro d'una bis. I tuoi fra per una pista, ti dimenticano accesso. E fra per ogni pista, parlano di successo. E so, dove sono nato e quanto ho fatto per stare come adesso. Io sono un R1, tu l'enduro, non c'è gara. Spacchi in altri campi, ma lasciami la strada. Ho preso la mia strada, credo nella strada. Credo a Rita Borsellino e Gino Strada. Questo è il suono, Triple X, attento. Questo è il suono, gli occhi clip, attento, attento, attento. Ti amane bene e non ti basta il talento. Questo è il suono, Triple X, attento. Questo è il suono, gli occhi clip, attento, attento, attento. Comincia in provincia, ma sta già arrivando in centro. Hai presente la faccia di un provinciale, eh? Quando la porti in giro per la capitale, può capitare che dica è tutto grande qui, sì. È tutta misura di Triple X, con i beats che foto solo un click, con uno dei tanti, ma chi? Te li ama, gli occhi click. Io onestamente parlando mi sento un VIP a casa mia, perché a me non mi credono chissà chi. Chissà come si fa a registrare una canzone, caccia grano e chiudi di studio almeno 3 ore. Già, ma devi avere le parole, aspetti l'ispirazione, ma non hai né voce né intonazione, no. Senza orario in radio ogni dì, cameretta, cannette, birrette del di per di. Vino e che yei in trasferta, attento, in tasca 3X e non ti basta il talento. Questo è il suono, Triple X, attento. Questo è il suono, gli occhi clip, attento, attento, attento. Te rimane bene e non ti basta il talento. Questo è il suono, Triple X, attento. Questo è il suono, gli occhi clip, attento, attento, attento. Comincia in provincia, ma sta già arrivando in centro. Ed è la Triple X, puntata 12. Te Yamane Binet è una bomba nuova per le vostre cazzo di orecchie. Siete pronti? Siete pronti?